vuoi sentire un vero commentatore? C'è Alessandro Mila a 24 ore. Fiore de Giaggiolo. 24 mattino. L'Italia si desta. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Ebbene sì, buongiorno cari italiani, care italiane, ci siamo anche oggi, 7 e 16 minuti, siamo in diretta al 1° maggio, festa del lavoro, si lavora festeggiando. E abbiamo iniziato come iniziamo sempre alle 6.30, oggi siamo debosciatini anche noi, siamo arrivati un po' con calma, no? un po' dopo, almeno io, Peter Bescapè che è in regia e che saluto, il grande alpino è qui come sempre dalle 4.30, 4.20, ha dormito le solite 2-3 ore. Ed è fresco come una rosa. Ma il segreto di questa cosa poi un giorno ce la spiegherai, caro Peter. Più va avanti negli anni e più ringiovanisce. Ne dimostra 22 adesso. Allora, come detto, ci siamo anche oggi. Iniziamo un po' più tardi e finiremo un po' più tardi. Andiamo avanti fino alle 9.30. Alle 9.30. Questo oggi e questo anche domani. C'è chi fa il ponte e chi no. Cari ascoltatori, allora, oggi tra l'altro abbiamo un piatto ricco, micificco. Allora, avremo ospiti, parleremo di questa vicenda ancora del caso Aldrovandi, ma anche del caso Magherini, un nuovo caso che sta facendo discutere una persona, un ragazzo, un quarantenne morto durante un arresto a Firenze, un fermo di polizia, meglio lo scorso mese di marzo, con i familiari che dicono sono tante le analogie con quello che è stato il caso Aldrovandi più famoso, di cui parleremo. Comunque avremo ospite Andrea Magherini, che è il fratello di Riccardo, e avremo ospite anche, per quel che riguarda la polizia, il segretario generale del SILP, uno dei sindacati di polizia, Daniele Tissone, che invece ha preso le distanze da quegli applausi definiti indegni anche da Giorgio Napolitano. Poi avremo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, alle 8.45, e quindi alle 9, dopo il giornale radio delle 9, il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, perché siamo a un anno dall'Expo. Ma poi parleremo anche delle novità della pubblica amministrazione. Insomma, come vedete, tanti ospiti. Vi do il numero per i messaggi, 349-238-6666. Dice, che dovete farci? Dovete dirmi se siete svegli, se siete all'ascolto, se siete qui con noi a lottare, più o meno, magari anche da sotto le coperte, per questo 1° maggio. Va bene, allora, da cosa iniziamo? Come di consueto, dalla lettura dei giornali andiamo a sfogliarli. Giovedì 1° maggio, per l'appunto, tra l'altro saremo in onda anche domani. Domani invece i giornali non ci saranno, ma noi commenteremo le notizie comunque. Le aperture dei quotidiani: Il Sole 24 Ore apre sulle riforme della pubblica amministrazione annunciate da Renzi, mobilità e niente esuberi, questo è il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Per la Stampa: burocrazia, sindacati, prefetti, arriva la sforbiciata di Renzi. Mentre su questo tema il Messaggero: rivoluzione statali, ecco i tagli, e il Secolo XIX, burocrazia, la sfida di Renzi. Per Repubblica invece: statali si cambia, manager licenziabili, prefetture dimezzate. Per Avvenire tutto questo è sintetizzato nel titolo: prove di buroshock. La burocrazia, no? Il cambiamento della burocrazia. Buroshock. Per il Corriere della Sera l'apertura invece è dedicata a Berlusconi. Il giudice frena Berlusconi, le sue offese in contrasto con le finalità dei servizi sociali. La vicenda Aldrovandi invece è nella prima pagina del giornale, che titola così: la polizia si spacca da Aldrovandi ai cortei violenti, mentre il Manifesto mette la foto di Aldrovandi morto, il titolo è Corpo di Stato. Il titolo di prima pagina di libro invece è Come sopravvivere alle imboscate del fisco, da qui a giugno 33 miliardi di tasse in arrivo, mentre l'Unità primo il lavoro, e il titolo tra l'altro in carattere rosso. Come detto, noi dalle 8:15 torneremo sul tema Federico Aldrovandi. Ieri Patrizia Moretti, cioè la madre, è stata ricevuta dal capo della polizia Pansa, ha ricevuto una lettera da Giorgio Napolitano, dal ministro dell'interno Alfano è stata ricevuta, e è andata a Roma e ha raccolto la solidarietà dopo gli applausi che sono arrivati nel convegno del SAP, uno dei sindacati di polizia. Ha ricevuto appunto la solidarietà dalle più alte cariche dello Stato. Napolitano e Aldrovandi, applausi indegni. Questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 5. È questa la lettera, il senso della lettera che il capo dello Stato ha rivolto alla madre di Federico, e cioè questa idea che siano stati applausi indegni. C'è da dire che ovunque però ci sono interviste. Fiorenza Sarzanini, per esempio, intervista Lorenzo Tamaro, che è sindacalista del SAP di Trieste, che dice: io ho battuto le mani convintamente, c'ero e ho battuto le mani perché non siamo mostri, teniamo alla divisa. La sensazione però è che ci sia ormai una spaccatura all'interno della polizia, come testimonia sia il titolo del giornale in prima pagina, ma sia anche a retroscena di Carlo Bonini, che è sempre ben informato anche su quello che avviene nelle forze dell'ordine. A pagina 6 e 7 di Repubblica scrive Carlo Bonini, sotto il titolo Democratici e arrabbiati tra le due polizie. Ebbene, scrive questo: il prefetto di Lungo Corso schiarisce la voce, la dice come se volesse levarsi un peso. Guardi, ha ragione il senatore Manconi quando dice che una parte della polizia è malata. Io aggiungo che lo è non da oggi, purtroppo. Non è certamente maggioranza ed è ragionevolmente lontana dal diventarlo, ma è tutt'altro che numericamente indifferente. Direi che un 20-25% del corpo mostra segnali inequivocabili di, come vogliamo chiamarlo, scollamento democratico, frustrazione patologica, smarrimento, rancore. E Rimini è solo una tappa di questo percorso. Non è stata la prima, come è noto, e non sarà l'ultima, perché la forza di questo contagio è importante. Esistono dunque, scrive Bonini, due polizie che vestono la stessa divisa ma coltivano un culto diametralmente opposto della Costituzione e delle leggi. C'è chi la serve, osserva amaro questo prefetto, e per questo se ne considera sottoposto, e c'è chi se ne ritiene depositario, custode, interprete e dunque sostanzialmente immune. È la polizia che non si lascia processare, che si ritiene orfana di una dirigenza e di una politica capace di rappresentarla e insieme guidarla, che della riforma di 30 anni fa non ha conservato e non intende conservare nulla. Questo articolo certifica, con la testimonianza di questo prefetto anonimo, ma di lungo corso, scrive Carlo Bonini, di due polizie addirittura nello Stato italiano. Si incrociano quasi a fornire una rappresentazione plastica di un corpo scisso, voci antitetiche, continua Repubblica, quelle di chi ricorda il rispetto della vita come irrinunciabile, il sindacato SIULP, e sente l'obbligo della dissociazione, il sindacato SILP, perché la polizia è al servizio di tutti i cittadini e le sentenze si rispettano, il sindacato SIAP, perché si applaudono gli eroi e non i condannati, il sindacato ANFP, e quella al contrario di chi rivendica il senso e il significato della Stand Innovation di Rimini, il sindacato SAP per l'appunto, e definisce ignobili le parole del senatore Manconi perché esiste il diritto ad appoggiare umanamente chi ha pagato più gravemente del dovuto, il sindacato COISP, fino ad avanzare una richiesta immediata, le dimissioni del capo della polizia, il sindacato CONSAP. Se vi siete persi in tutti questi acronimi sindacali, vabbè, è normale, ma ne ho contati 6 o 7. Anche questa forse è un'anomalia, ma non è un'anomalia non nella polizia, è un'anomalia certamente italiana in generale. sta di fatto che anche questo c'è la divisione. Tutto questo fa dire anche al ministro alla salute Lorenzin in un'intervista alla stampa. Perché viene intervistata il ministro alla salute? Perché il ministro alla salute Lorenzin ha un fratello agente di polizia. Questo è il motivo per cui Francesca Schianchi le chiede qualche parere. Trovate a pagina 4 della stampa. E allora ecco qui. Sono sorella di un poliziotto, conosco i sacrifici della categoria, ma sul caso Aldrovandi l'applauso di ieri è inaccettabile. In questi anni con mio fratello ho parlato spesso di questi argomenti, visto che lui fa parte del reparto mobile, coi suoi colleghi venivano a casa mia. Non voglio parlare di lui, ma posso dire che ci sono tantissimi poliziotti che fanno il loro lavoro rischiando a volte la vita, avendo a che fare anche con gente armata di spranghe allo stadio come in piazza. Ci sono momenti di tensione. Ma certo, questo applauso è stata un'azione sindacale sbagliata, scrive e dice Beatrice Lorenzin. Capisco possa esserci solidarietà verso i colleghi, ma un sindacato rappresenta tutta una parte delle forze di polizia e deve stigmatizzare un episodio come questo isolato per poter difendere la dignità del lavoro che le forze dell'ordine fanno e che va valorizzato. Questo è, allora ne parleremo alle 8:15 anche con il caso nuovo che è emerso prima lentamente, ora prepotentemente sui giornali, di Riccardo Magherini. Riccardo Magherini, 40 anni, è morto a Firenze il marzo scorso mentre i carabinieri lo stavano fermando. Ha avuto anche un passato di calciatore, ci sono anche dei video, perché la gente che ha sentito le urla in strada di lui che diceva ho un figliuolo, non voglio morire, era chiaramente in stato anche confusionale, si è parlato di assuntore di cocaina, però è stato fermato, dicono i familiari, in un modo simile a come è successo ad Aldrovandi, tanto che da ieri la novità è che ci sono 4 carabinieri indagati per omicidio, i 4 carabinieri che hanno partecipato ovviamente al fermo quella notte. Tra di loro indagati anche, oltre ai 4 carabinieri, 5 operatori sanitari che sono intervenuti. C'è qualche testimone che ha parlato di calci mentre Magherini era a terra. Il senatore Manconi, che segue questo caso, dice è pieno di analogie con Aldrovandi, certamente lui lo segue in prima fila, e tra gli avvocati della famiglia Magherini c'è anche Fabio Anselmo, lo stesso che ha assistito anche le famiglie Aldrovandi, anche i casi Cucchi, il caso Uva, un'altra persona che è morta mentre era in una caserma dei carabinieri dopo un fermo. E insomma, diciamo che questo caso ora ha avuto certamente delle novità, visto che da ieri sono indagate varie persone per omicidio. Ne parleremo alle 8:15. A proposito di problemi giudiziari, ma di altro tipo, è arrivata la condanna in appello anche per Dolce Gabbana. Nonostante la procura e la pubblica accusa avessero chiesto l'assoluzione, per una questione fiscale è arrivato alla condanna in appello anche per Dolce e Gabbana. Una decisione definita a sorpresa, perché chiaramente quando la pubblica accusa chiede la soluzione è un pochino una sorpresa che ci sia invece la condanna. E 1 anno e 6 mesi di reclusione, omessa dichiarazione dei redditi. I dettagli sono di Angelo Mincuzzi a pagina 34 del Sole 24 Ore. Quella società dal nome ammiccante, la Gado Sarl, costituita il 4 marzo 2004, capitale sociale 12.500 euro, sede nel Granducato di Lussemburgo, era dunque realmente una società estero vestita, collocata nel piccolo paradiso fiscale al solo scopo di pagare meno tasse. Così almeno la pensano i giudici della Corte d'Appello di Milano, che ieri hanno condannato a 1 anno e 6 mesi di carcere Stefano Dolce e Domenico Gabbana, colpevoli di omessa dichiarazione dei redditi. Rispetto al verdetto di primo grado, ai due stilisti è stato concesso un piccolo sconto di pena, in totale 2 mesi, una riduzione dovuta al fatto che alcuni episodi contestati sono caduti in prescrizione. Ma con Dolce e Gabbana, tra l'altro, sono stati condannati anche altri manager, anche il fratello di Domenico, Alfonso Dolce, Cristiana Ruella e Giuseppe Minoni, 1 anno e 2 mesi, e il commercialista Luciano Patelli, 1 anno e 6 mesi. Si dice assolutamente stupito, allibito, l'avvocato Massimo Di Noia, avvocato di Dolce e Gabbana, visto che lo stesso procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione degli stilisti perché aveva capito. E forse si rianimerà la polemica. Ricordate che ci fu una grande polemica, credo, anche con l'assessore di Milano e anche col sindaco di Milano, che parlarono dopo la condanna in primo grado, insomma, di una Milano che non poteva in qualche modo accettare la convivenza con due stilisti così importanti di fama mondiale. Chissà se questa condanna in appello rilancerà queste polemiche. Fisco, pena con sconto per Dolce & Gabbana, è anche una pagina del Corriere della Sera, anche sul Quotidiano Nazionale. Tasse, condannati Dolce & Gabbana, l'accusa aveva chiesto di assolverli, ma è arrivata la condanna in appello. Va bene, che dobbiamo fare, caro alpino Peter Pescapè? Andiamo un attimo in pubblicità per pochissimo tempo, anche la pubblicità non chiude, nonostante sia il primo maggio. E voi, 349-238-6666, che state facendo, cari italiani? State dormendo? Oppure, se mi mandate un messaggio come Marina, che mi scrive: ciao Milan, meno male che ci sei anche oggi, sei come una droga. No Marina, adesso non esageriamo. Un abbraccio sentito e esteso ai tuoi collaboratori, e questo lo accolgo con grandissimo piacere. Grazie Marina, saluto Miriam Lucchetti in redazione, saluto Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli, Anita Panizza, tutti qui pronti. E allora tra poco riprendiamo. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti sveglio ogni mattina. Questa è una delle migliori, grazie Alpino. Allora, ma quante manifestazioni di affetto, bellissimo che ci sei anche oggi. Alino mi scrive: Marta da Treviso, ma bellissimo che ci sei anche tu, cara Marta, evviva. Oppure William Fornaio da Belluno, al lavoro anche oggi, buona giornata anche a te. Buongiorno Milan, Daniela ci scrive, mi invita a vangare l'orto con lei. Io guarda Daniela, vengo volentieri a vangare l'orto, è bellissimo, ho passato un'infanzia, estate in Valtellina nell'orto, era bellissimo. Stefano da Genova, sarà tifoso del Genoa, non lo so, comunque va a fare una bella sgambata in mountain bike. Buona giornata ovviamente Stefano, ancora va tutti. Ines da Torino, buon primo maggio, evviva. Marina, ecco, l'abbiamo salutata anche prima, e poi ancora chi c'è? Vogliono sapere l'età di Peter Pescapè. Ah, 38 giugno, anzi segnatevelo, il 10 giugno, segnatevelo, tutti invitati alla festa. Non tutti invitati alla festa, si presentano in 100.000 alla festa dell'Alpino. Ciao Tommaso, sono nel mio taxi, ci scrive, viva, ci sono anch'io. Marcel da Monza, ciao Marcel. Allora, chi ci ascolta sotto le coperte, io ci sono. Chiara, grazie Chiara. Andrea da Roma, auguri, evviva. Ma quanta gente. Roberto, Giulie, che è nel suo piccolo hotel in provincia di Pisa, vuoto. Questo mi dispiace. Ivan, pasticcere per fortuna nella provincia di Verona, dice: quando gli altri fanno festa noi lavoriamo. Evviva, allora raccontatemi tutto, 349-238-6666. Anche Francesco sta andando in montagna a sciare con il figlio Nicolò, e poi c'era un altro che stava andando ad Abano a seguire il figlio che fa un torneo di calcio internazionale. Mamma mia, che bello. Tanti che sono con noi. Allora continuiamo nella lettura dei giornali. Ieri c'è stato l'annuncio, una serie di annunci, più che delle riforme, ma questo si sapeva, annunci di riforme che verranno nella pubblica amministrazione. Sono tantissimi temi che sono stati messi sul piatto da Matteo Renzi. Staffetta generazionale nella pubblica amministrazione per 10.000, questo è il titolo del Sole 24 Ore, a pagina 4. Come scrivono Eugenio Bruno e Davide Colombo, nessuna sorpresa, come annunciato sulla pubblica amministrazione non arrivano misure immediate, ma si apre una mega consultazione pubblica destinata a durare un mese. E allora, cari ascoltatori, segnatevi questa mail: rivoluzione@governo.it. Potete mandare proposte, suggerimenti, considerazioni, L'ha detto il Premier, com'è che è? rivoluzione@governo.it. Renzi dice: tre saranno le linee di intervento. Si parte dal capitale umano, da riqualificare e svecchiare. Si procede con un capitolo dedicato agli sprechi e alla riorganizzazione delle amministrazioni centrali e periferiche. Si conclude col capitolo dedicato agli open data, la semplificazione, la digitalizzazione dei servizi. Ci sarà il famoso PIN unico per il cittadino, ovvero una chiave di identità unica digitale con cui accedere a tutti i servizi pubblici. E poi ci sarà una stretta anche sugli enti, per esempio una scure sulle prefetture, come racconta anche il Messaggero a pagina 4, una scure sui permessi sindacali, le prefetture dovrebbero arrivare a 40 dalle oltre 100 attuali, via i doppioni, per esempio unificazione tra ACI, PRA e motorizzazione, coordinamento tra le forze di polizia con un'unica centrale acquisti, vincoli di incompatibilità più stringenti per i magistrati amministrativi. Insomma, sono tantissime le promesse, come racconta oggi in un piccolo fondo Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore in prima pagina. Le misure annunciate vanno in gran parte nella direzione giusta, ma si tratta al momento di annunci e non decreti e disegni legge. Questi seguiranno forse, o magari seguiranno in parte, ma intanto Renzi avvia il processo. Magari è una truffa, scrive il Sole, ma può essere anche un metodo, quello di creare il consenso sulle riforme per poi renderle praticabili. Si vedrà presto. Beh, insomma, questa frase è anche molto dura. Magari è una truffa, ma si vedrà. Intanto il ministro Madia, che oggi tra l'altro vedete, se volete vedere su, scusate il gioco di parole, ho detto oggi, ma su Oggi anche come rivista, credo si presenti con Margherita, la sua neonata, la seconda figlia. Beh, il ministro Madia, che si è presentato anche ieri con Matteo Renzi in conferenza stampa, viene intervistata da Repubblica, da Luisa Grion, trovate l'intervista a pagina 4, e dice: anche dove ho partorito gli statali sono pronti alla staffetta generazionale. Scommette molto su questo. Intanto dice: la staffetta generazionale una parte sarà a costo zero, mi riferisco all'abrogazione di trattenuta in servizio che ora dà la possibilità di continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. Questa misura libererà fino a 15.000 posti in più, visto che presumibilmente i nuovi assunti avranno qualifiche meno alte rispetto a chi esce. Ecco, la domanda di Repubblica è questa: ma è sicura che vi sia tutta questa volontà di partecipare al ricambio generazionale? Sì, l'ho riscontrato anche di persona. Quando sono andato in ospedale per partorire mia figlia, parlando con le infermiere, ho visto che il problema c'è e la disponibilità a risolverlo pure. Molte di loro sarebbero disposte ad andarsene un po' prima per lasciare il posto alle figlie che fanno lo stesso lavoro, ma da precarie. Questo dunque dice il ministro Madia a Repubblica. L'altra notizia ancora prepotentemente sui giornali è la vicenda Silvio Berlusconi. Allora, ieri Silvio Berlusconi ha subito una battuta d'arresto perché il giudice di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza con la quale l'ex premier, il capo di Forza Italia, aveva chiesto ulteriori spazi di libertà personali, per esempio andare a Bari al convegno di Fitto per lanciarlo. Non potrà farlo. Per Berlusconi niente deroghe, d'altronde scrive il tribunale, è incurante delle prescrizioni. È incurante delle prescrizioni, cioè la sensazione che non abbia, come dire, non prenda bene sul serio il senso, come scrive Luigi Ferrarella a pagina 8 del Corriere della Sera, secondo il Tribunale di Sorveglianza, non prende bene sul serio quella che gli è stata affidata ai servizi sociali come compito. Ma dei servizi sociali parleremo e del caso Berlusconi tra poco, ma devo fare una parentesi importante a proposito di chi non prende sul serio le cose. Voglio salutare Mauro Meazza, eccolo qui, il nostro buongiorno, il nostro buongiorno. Maurone, anche il primo maggio sempre presenti. Senti, fai poco lo spiritoso, hai visto sul Sole 24 Ore finalmente stiamo cominciando a capire come si paga e quanto si paga della nuova IUC. Eccola. No, perché lo so che poi tu sottovaluti questi aspetti, caro Alessandro. Invece devi essere attento. Allora vai a pagina 6 del Sole 24 Ore di oggi, che ti spieghiamo la TASI, l'IMU, la TARI. cominciamo a familiarizzarci con queste sigle. Sei contento, Alessandro, di questo? Ma naturalmente, certo, assolutamente, come molti di noi, del assolutamente resto. Vabbè, insomma, se per caso invece vuoi familiarizzarti col bonus IRPEF, ti ricordo, cioè i famosi 80 euro, quelli sì, lì, sì. Ecco, ti ricordo che noi abbiamo sia un po' di risposte, di chiarimenti sul Sole 24 Ore, ma anche sul sito c'è la possibilità di mandare delle domande agli esperti, non per chiedere che cosa comprarci con gli 80 euro naturalmente, ma proprio sull'applicazione www.sole24ore.com/ostanghetta, non so come dire. Quella roba là, quella roba là un po' storta, quella roba là che va via un po' storta sulla quella tastiera. Quella cosa un po' storta, esatto. Poi nel farti tanti tanti cari auguri per l'incontro calcistico previsto per domenica sera, mi pare. Sì, sì, sì. Ti ricordo, ti ricordo che c'è una squadra che è appena andata in finale di Champions League che rivaluta molto la nostra prestazione europea. L'Atletico Madrid. Ti ricordo che noi abbiamo perso con almeno i vice campioni a questo punto. Sì, sì, questa mentre voi non pervenuti. Diciamo che questa difesa in diretta mi ricorda, ti rimando per questa difesa in diretta alle pagine di diritto e di giurisprudenza sul Sole 24 Ore anche di oggi. Che peraltro, se tu oggi leggessi, ad esempio, scopriresti che la Cassazione ha detto che se tu paghi la multa stradale e però sbagli non gli paghi anche le spese postali, fino adesso si diceva è come se non avessi pagato, invece ma non voglio dire altro. Non vuoi dire altro. Leggi nelle sì, pagine. Ma allora io leggo il Sole, però ti devo, sta succedendo una cosa straordinaria, caro Mauro. Io ho lanciato questo all'SMS di diteci cosa state facendo, se siete qui ad ascoltare, ma senti un po', queste te le devo dire. Lavinia mi scrive: qui si fa Nordic Walking. Oppure Franco da Pordenone: sto andando a fare colazione dove fornirà l'alpino a Pordenone. Tra l'altro l'alpino andrà a Pordenone alla Dunata degli Alpini. Al lavoro dalle 5 faccio la raccolta differenziata a Nettuno. Marco ci saluta. E ancora Serena d'Asti: buongiorno, sono debosciata dalle 7 ma mi ascolto. Vi ascolto da Martignano, vi ascolto in mezzo ai campi. Anch'io ci sono, io sto mungendo le capre, io vado a volare in Aliante, mi scrive Andrea. Io sto portando i figli a cavallo da Sirone in provincia di Lecco e noi siamo qui, Mauro Meazza, a lavorare. Beh, insomma, a lavorare, dai, insomma, siamo qui un po' a raccontarcela. Comunque, se tu allora per impiegare utilmente il tuo tempo, visto che sei lì, dammi retta, leggi, guarda che ci sono anche le pagine sulla casa e sul condominio. È un tuo punto d'onore. Allora, e ancora tanti cari auguri per domenica. Grazie, anche a te, ovviamente augurissimi per uno splendido derby, caro Mauro Meazza, splendido, il derby degli straccioni d'altronde quest'anno. Un derby di Mestre classifica. Allora, stavolta non lo lanci tu il traffico, perché devo leggere. Allora fammi leggere ancora Cristina che mi scrive: grazie, mi manda i baci, mi scrive: t'ho visto in TV, te sei proprio un bel toseto. Vabbè, insomma, avrà visto Mauro Meazza. Isham da Verona, autista, ci saluta. Luigi ci saluta, buon primo maggio. E tutti, insomma, vabbè, sei il nostro sole in questa giornata di nebbia, Rita da Vigevano. Hai capito? Questo è riferito a te, forse, Rita da Vigevano. Forse al giornale. E non è una parente? Cioè non è una tua parente? No, non è una parente. Neanche un tuo creditore. No, ma senti questo: buon primo maggio e grazie per il modo in cui fate informazione. Io oggi lavoro, sono lo chef di un hotel alle Seychelles. Con il numero delle Seychelles, ci sta ascoltando dalle Seychelles, Mauro! È fantastico! Ci sta ascoltando dalle Seychelles, in streaming, ti rendi conto? Ma noi abbiamo le informazioni sul traffico alle Seychelles adesso. Ma ecco, attenzione, informazioni sul traffico interessantissime per quelli delle... Lanciale tu, il traffico alle Seychelles, dai, su! Va bene, traffico alle Seychelles! Alessandro Mila, il funambolo dell'informazione. Vabbè, questo ovvio, ma è fantastico. Allora, chi ci ascolta dalle Seychelles, lo chef di questo, ma un abbraccio lunghissimo che arrivi fino a lì. E poi Gigi da Cagliari si sta preparando per la processione di Sant'Efisio. Alessandra è a colazione rilassata e vabbè, poi però lavora in solidarietà con noi. Vabbè, non commento, ma cito solo chi mi scrive: qui si fa del bello tra le coperte in vostra compagnia. Andiamo avanti, leggiamo ancora un po' i giornali, eh? Spenga la radio, cara ascoltatrice o caro ascoltatore, che è meglio, insomma, perché adesso devo leggere un'intervista all'Alfano, capisce che non è che si concilia molto con quello che succede lì. Comunque, Angelino Alfano, appunto, viene intervistato da Francesco Verderami a pagina 9 del Corriere della Sera, e risponde in modo duro all'intervista fatta ieri da Marina Berlusconi, che ha detto sempre allo stesso giornale: per ora non scende in politica, ma forse sì, più avanti. Risponde soprattutto a Silvio Berlusconi: abbia smesso di guardare nello specchietto retrovisore, dice Alfano. Ormai Berlusconi ha coniato al passato la straordinaria frase con cui scese in campo 20 anni fa: l'Italia era il paese che amavo. E ancora dell'intervista di Marina Berlusconi, dice Alfano: nell'intervista non c'è nulla di nuovo, nulla che non sapessi già. È da ottobre che stanno preparando il discorso per la sua discesa in campo. Non c'è nulla che evochi speranza, che sia proiettato verso il futuro. Si percepisce semmai la paura per la fine di una storia che ha imposto di anticipare i tempi. Che vuol dire, chiede Verderami? Beh, ma il calo dell'audience delle trasmissioni TV in cui partecipa Berlusconi, il panico che serpeggia nel gruppo dirigente di Forza Italia, le trame interne di chi pensa di potersi prendere quel partito dopo le europee. Tutto ha suggerito di accelerare il preannuncio della discesa in campo di Marina Berlusconi nel tentativo di gestire il futuro di una forza che non ha futuro. Insomma, Alfano durissimo con Berlusconi, con Forza Italia e con Marina. Marina dice le stesse cose del padre: ha paura per la fine di una storia. Questo è il titolo di un'intervista a pagina 9 del Corriere. Rimanendo sul Corriere, mi ha stupito quello che si trova a pagina 11 invece, e che certamente è una notizia abbastanza incredibile. La scrive Renato Benedetto a proposito di politiche, o meglio amministrative, a Bari. La figlia di un boss in lista col centro-sinistra, l'imbarazzo del PD. È la storia della numero 13 in lista, 22 anni, parrucchiera, si chiama Esperanza Diomede, è la figlia di Michele Diomede, esponente di primo piano della criminalità locale degli anni 90, fratello di due boss, tornato libero nel 2012 dopo aver scontato 24 anni per omicidio. È candidata nella lista del candidato sindaco del PD De Caro, Antonio De Caro, e chiaramente questo ha creato molto imbarazzo. Il candidato sindaco dice: il riscatto va bene, ma la campagna elettorale non è il palcoscenico giusto. La figlia però non ha alcuna intenzione, la figlia di questo boss, di togliersi dalle liste. Con la malavita io non c'entro niente, dice, e anche mio padre oggi è un altro uomo. Ma certo, questa storia fa molto molto scalpore. Che dire, poi c'è grande polemica ancora per il 1° maggio, chi lavora, chi, nelle solite polemiche, lo sciopero contro il lavoro, scrive Libero a pagina 8, i dipendenti stanno a casa e l'Iper cosa fa? L'Iper li sostituisce, c'è una polemica anche su questo. Ma io, prima di andare, voglio fare ancora gli ultimi saluti. Martino ci saluta da Los Angeles, caro Peter da Los Angeles, ma io sono davvero emozionato, grazie Martino che ci ascolta da Los Angeles, e quindi è tarda sera ieri, ancora siamo al 30 aprile. C'è chi mi scrive: Giancarlo da Lucca che ascolta, 1° maggio, sole, whisky e sei in pole position. Vabbè, questo mi scrive questo. Taxi Pistoia, saluti, grande Milan ma forza Inter, mi scrive anche un matto. Roberto da Cuneo: sta andando a combattere l'evasione fiscale. Ma insomma, tantissimi mi stanno scrivendo, ma io sono al momento conclusivo. La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi vince La Stampa con Vittorio Sabadini, con mezza pagina dedicata a Cressida Bonas, che lascia Harry, il principino Harry, perché odia i paparazzi e non ce la fa. Ma chi se ne fotte? Ci viene da dire, vabbè, oggi La Stampa, la carta costa, e allora andiamo al giornale radio, ma riprendiamo dalle 8:15 con tanti ospiti, staremo insieme fino alle 9:30, state con noi.